rosa con quegli stivali e quel nero col bacco. Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai. Chiunque ti guarda rimane di stucco ed ogni ragazzo si sente un calmucco. Ai ai ai ai ai ai ai. Tutta la gente si gira, si gira. Sei bionda, sei proprio uno spacco con quegli stivali e quel nero col bacco. Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai. Hey hey hey hey oh hey hey hey. Si gira, si gira, quando ti vede passar, passar, non sente più che c'è freddo, c'è freddo, e resta ferma a guardar. Sei alta, sei bionda, sei proprio uno spacco con quegli stivali e quel nero col bacco. Sei bionda.